respiro. La nostra azienda è in grado di smaltire i rifiuti che la sua fabbrica produce in un anno. 800 tonnellate. 800 tonnellate. Non è un problema. O sai che la gente come me ha mandato in Europa sto paese in me? O sai quanto operai se sono salvato perché non faccio spendere uno cazzo della loro azienda? È fermo, te guarda, ma qua. Capite? Eh? Capite? Dibbete, tutta gente che si salva se la mandi perché ci sta a mietti. Ho visto come li fai campare. Salvi un operaio a Mestre e uccidi una famiglia a Mondragone. E è così che funziona. Ma non l'ho deciso io. Noi arriviamo a risolvere i problemi che hanno creato gli altri. Il cromo, l'amianto, non l'ho creato io, le montagne non me sono mangiate io. Funziona così. Funziona così? Funziona così. E non funziona così. No? No. No? Io non sono come te. No. E come sì? Sono diverso. Ah sì? Baffè e pizza. È diverso. Rifiuti tossici, rifiuti elettronici, l'amianto. Di questo parliamo questa settimana a Respiro. Buongiorno ascoltatori, io sono Cristina Carpinelli. Dunque, come avete sentito in apertura, abbiamo scelto di mettere un estratto dal film Gomorra di Garrone, un film che nasce dall'omonimo libro di Saviano e che parla di criminalità organizzata e di rifiuti. Una storia che continua giorno dopo giorno a ingrossare le tasche delle mafie. E nonostante i proclami, le cose da fare sono ancora molte, anche a Napoli. Per farvi capire quanto è urgente questo problema nel napoletano, vi diciamo solo che ancora oggi si notano i roghi abusivi, ovviamente perché illegali, di rifiuti speciali perfino nelle mappe di Google e dalle immagini satellitari. Ma partiamo da una storia che noi di Respiro stiamo seguendo da tempo, perché quando si parla di rifiuti tossici purtroppo la mappa si allarga a varie regioni italiane. In Puglia non se la passano molto bene. Siamo nel Salento, nella zona di Ugento. Per capire questa storia bisogna fare un salto indietro e andare alla notte del 15 giugno del 2008, quando un uomo, Peppino Basile, viene ucciso a coltellate davanti alla porta di casa. Basile, esponente locale dell'Italia dei Valori, aveva denunciato una discarica abusiva a Ugento, facendo nomi e cognomi e portando materiale alla magistratura. Dopo l'omicidio di Basile si costituisce con lettera scritta ai magistrati un imprenditore, Bruno Colitti, che aveva a suo tempo denunciato la presenza in località Burgesi, frazione di Ugento, di rifiuti tossici e pericolosi sepolti sottoterra. Colitti parla molto chiaro ai magistrati, dicendo non solo di aver scaricato materiale tossico, ma anche che la discarica di Burgesi non è mai stata bonificata e i soldi dell'appalto sono stati intascati dalle ditte senza muovere un dito. Colitti parla a ragione, nel senso che aveva vinto una parte di appalto pari a 365.000 euro mai incassata per bonificare l'area. Il sindaco di Ozza del PDL, sentito un mese fa, ci disse questo. Qualcuno si è inventato una autodenuncia e stanno uscendo fuori di nuovo queste chiacchiere. Lei dice che Colitti, l'imprenditore che si è autodenunciato per aver scaricato materiale tossico tra il 2005 e il 2006, si è inventato tutto. Ma materiale tossico non ci poteva essere perché è stato bonificato. Colitti le disse che lui stava scaricando. Questo è falso. Per questo motivo stiamo querelando. Comunque... Lei comunque dice che la discarica, diciamo, di Contrada Burgesi, quella abusiva, è stata bonificata? Sì, ma quello che faceva parte dell'appalto... Ma è stata bonificata? Ma sì, tutta bonificata. Siccome io ho sentito anche la popolazione che dice che negli scorsi anni ci sono stati lavori di scavo notturni e di scarico notturni, lei ma nel dubbio... Perché... Sono tutte voci, non sono compiti istituzionali del comune. Quelli. Però lei istituzionalmente, come sindaco, non ha preso una posizione, perché? Perché non c'era niente, adesso sono uscite queste sciocchezze. Intanto però la magistratura indaga e vengono eseguiti sempre un mese fa i prelievi presso l'ex discarica di Ugento. Terza tappa, dopo le due fasi di carotaggio che si sono svolte nelle scorse settimane. E purtroppo la conferma che quanto sostenesse Colitti è vero sta per arrivare su questo piccolo paesino di cave e uliveti. Ma il problema è molto più diffuso di quanto si pensi. E stando alla procura di Brindisi e Carabinieri del NOE, il Salento è ormai il nuovo capolinea dei rifiuti tossici. Numerose intercettazioni e le indagini su un centinaio di persone smascherano un traffico illegale di rifiuti speciali pericolosi provenienti da mezza Italia verso Brindisi. I rifiuti arrivano nelle discariche accompagnati da bolle di accompagnamento, i fogli di identificazione rifiuti truccati. Sulle bolle vengono indicati i codici europei del rifiuto non corrispondenti alla verità. Ovviamente tutti questi rifiuti tossici finiscono sulla pelle di chi vive in quelle zone e che ne paga il prezzo più caro spesso senza essere risarcita. Non sempre, però. Oggi vi raccontiamo una storia che può essere utile anche a chi di voi all'ascolto è stato contaminato dall'amianto e per questo si è ammalato gravemente o solo lievemente. La storia è partita dagli Stati Uniti, da uno studio legale dell'avvocato Mitchell Cohen di Filadelfia, che da anni sta provvedendo al risarcimento delle vittime di amianto e dei loro familiari, e ora è arrivata anche in Italia. Per farlo, questo studio legale americano si è appoggiato a uno studio legale italiano, lo studio di Ceriani. Sentiamo. Ci sono delle società americane, molte delle quali attualmente in stato di decozione, in stato di fallimento, che hanno costituito delle sorte di fondi e di trust che prevedono degli schemi predeterminati di risarcimento per certi soggetti. Perché lo hanno fatto? Perché sono società che sono produttrici di impianti che sono stati, che erano impiantati su delle navi di produzione americana e che gli impianti contenevano amianto. Quindi sull'assunzione di una quota di responsabilità in relazione a patologie, si dice asbesto correlate, cioè connesse all'esposizione dell'amianto, queste società oggi fallite hanno predeterminato degli schemi di risarcimento che permettono di risarcire secondo la loro quota di responsabilità soggetti che abbiano contratto, che possono dimostrare di aver contratto queste patologie. Chi sono questi soggetti e quali sono queste navi? Dunque, le navi sono di provenienza americana, di produzione americana, dove sono stati siti degli impianti di produzione americana, impianti tipo, non so, di riscaldamento, di raffreddamento, impianti di vario genere. Ma possono anche essere navi non americane, possono essere navi italiane, in molti casi sono navi italiane che sono appunto di provenienza. Molte navi della Marina Militare americana sono state poi nel tempo trasferite alla Marina Militare italiana o anche alla Marina civile, commerciale. I soggetti che abbiano lavorato su queste navi, che hanno prestato servizio di assistenza nei vari porti italiani, parliamo di Taranto, Napoli, La Spezia, anche Genova, i principali siti portuali poi sono questi. I soggetti che abbiano lavorato su queste navi, più o meno continuativamente, che siano vittime di patologie asbesto correlate, sia quelle non maligne sia quelle maligne, in particolare il terribile mesotelioma, possono accedere a questi schemi di risarcimento avendo le maggiori informazioni tramite l'Associazione Italiana Esposti Amianto, www.aiea.org dell'Associazione Italiana Esposti Amianto, oppure tramite il nostro studio. Sul sito è pubblicata anche una lista di navi, in modo da rendere più precisa l'individuazione appunto di quelli che possono essere i soggetti cosiddetti eligible a questo risarcimento. L'elenco delle navi è quello delle quali è composto da navi di cui siamo sicuri che su quelle navi appunto ci fossero questi impianti che danno la possibilità poi di ottenere un risarcimento. Il risarcimento vale anche per chi è morto, diciamo, in seguito a malattie? Assolutamente sì. Infatti in questo anno abbiamo già trattato in tutto pochi casi, ancora perché non abbiamo ancora abbastanza diffuso questa iniziativa, abbiamo trattato circa 25 casi di base. Poi posso dire che in un paio non è stato possibile assisterli perché poi non c'era documentazione sufficiente o perché c'è stato anche in altri casi, due o tre casi, insomma, poi c'è stato un po' di sfiducia in questa sorta di iniziativa, pensando che potesse essere, insomma, qualcosa che metteva, c'è stato un po' di disagio a volte iniziale proprio nel capire esattamente i termini dell'iniziativa, la semplicità dell'iniziativa e l'efficienza dell'iniziativa, ma in altri casi, una decina di casi sono già stati chiusi nel giro di 12 mesi, 14 mesi, sono stati aperti, sono stati chiusi e le persone, in particolare i familiari delle vittime, hanno già ottenuto un risarcimento, che intendiamoci, non è un cospicuo risarcimento, parliamo a seconda del tipo di patologia e della società che entra in gioco, diciamo, che risponde per il rapporto causale con la nave, può variare dai 10.000 ai 50.000 fino ad arrivare nei casi più gravi ai 100.000 dollari. Non sono importi diciamo notevoli, sicuramente non sono importi, non discutiamo, sarebbe discutere di etica, non di diritto, ma insomma non sono un giusto risarcimento per le sofferenze che hanno subito le vittime, ma sono un qualcosa, e sono un qualcosa in più, questo posso dire, che non ha un costo, nel senso che il costo è predeterminato, ossia se c'è un risarcimento le competenze legali sono on the top. È la prima volta che succede una cosa del genere in Italia? Dunque, io ho notizia di iniziative simili, di cui peraltro non conosco i dettagli, che sono in questo momento portate avanti tramite altri soggetti, ma per quel che ne so io sì, è la prima volta. E sta succedendo anche in altri paesi? Sta succedendo in altri paesi, è già successo, ma sia in Spagna, molto estensivamente, molto in Inghilterra, moltissimo, perché soprattutto in Inghilterra è destinataria di, o è stata porto di, in cui sono transitate navi americane, appunto, ma anche Malta, ovviamente, direi, e anche la Germania. Quante persone per ora si sono rivolte a voi? Le ho detto prima, circa 25, sì, no, in totale 25, possiamo dire che hanno già ottenuto un assegno di risarcimento, ad oggi proprio due assegni li ho ricevuti oggi, guardi, questa mattina, e ce ne sono altri 9 o 10 che sono in attesa di definizione e che saranno definiti nei prossimi mesi. Questa è una storia piccola ma forte, mi faccia dire, non si tratta di dare il giusto risarcimento, ma solo a certe vittime di un certo amianto, grazie a questo canale si riesce a dare un risarcimento piccolo ma sicuro, senza costi e rapido. Questa è la bellezza dell'iniziativa, come l'ho vissuta io e come la vedo io. Che sia chiaro una cosa, un punto che è estremamente importante dal punto di vista giuridico, sul cui appunto ci ho messo, diciamo, personalmente io e le colleghe del mio studio, diciamo l'attenzione professionale. Queste transazioni con queste società non implicano alcuna rinuncia nei confronti del diritto, in relazione al diritto a un risarcimento diverso ed ulteriore che questi stessi soggetti possano eventualmente richiedere in altra sede o nei confronti appunto di altri soggetti convenuti. Mi spiego meglio: se il soggetto che riceve $30,000 dalla società Melville americana in virtù di questo schema di risarcimento di cui le ho parlato, ritiene di avere subito un danno che è superiore a quell'importo che ha ricevuto e vuole fare causa, che so io, all'armatore, alla marina, al datore di lavoro, perché ritiene di aver diritti, bene, può farlo. Speriamo che il nostro contributo possa aiutare persone in ascolto. Se avete bisogno di informazioni potete guardare il sito www.associazioneitalianeespostiamianto.org oppure scriveteci a respiro@radio24.it. Respiro. Bentornati a Respiro, io sono Cristina Carpinelli e dunque parliamo del telefonino, del computer, del televisore al plasma, oggetti di vita quotidiana che finiscono per segnare uno status, che diventano obsoleti molto rapidamente, superati da altri di nuova generazione con più funzioni. Insomma, il mondo tecnologico e dell'elettronica sforna parecchie idee, ma anche parecchi rifiuti. Ed è ormai impensabile non gestire questi rifiuti in maniera corretta. In Italia si continua a trovarli nelle discariche e questo è molto pericoloso ed è da evitare per eliminare i rischi di dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose che questi oggetti contengono. Pochi giorni fa Greenpeace ha pubblicato un dossier su questo argomento e tra le altre cose si affermava che da febbraio viene sollecitato il ministro per l'ambiente Prestigiacomo a emanare un decreto che imponga ai negozianti di ritirare gratuitamente un prodotto vecchio in caso di acquisto di un nuovo articolo di consumo, ma ancora il decreto non c'è. Secondo un'inchiesta dal nome iTox, oltre il 40% dei centri di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia, visitati da Greenpeace, non rispetta i requisiti di legge e un altro 40% ha avuto una valutazione mediocre. Solo il 20% ha ottenuto un giudizio positivo. Quanto sostiene Greenpeace è vero, ci dice Danilo Bonato, direttore di Remedia, un consorzio senza fini di lucro, multisettore per il riciclo dei rifiuti elettronici. Abbiamo delle difficoltà, è importante chiarire che in questo caso i produttori e i consorzi che sono nati nel 2005, si sono mossi con grande anticipo, perché già in Europa i produttori sono attivi su questo tipo di servizi di gestione dei RAE. Quindi l'industria credo che in questo caso abbia fatto pienamente la propria parte, anche in modo volontario si è data da fare per avviare il sistema, e tutto quello che è la gestione dalle piazzole ecologiche fino al trattamento ambientalmente corretto viene gestito molto bene in Italia, bisogna dirlo chiaramente. Quello su cui Greenpeace ha puntato l'attenzione e che diciamo in qualche modo condividiamo è il fatto che manchi ancora dopo molti mesi un decreto che potrebbe consentire ai cittadini di presentarsi presso i negozi e consegnare il vecchio apparecchio non funzionante al momento dell'acquisto di uno nuovo. L'altro aspetto è la carenza in diverse zone d'Italia, in particolare nel sud Italia, di isole ecologiche, ma questa è un'attività che compete agli enti locali e su cui ci sono dei gravi ritardi. Ma quali sono i numeri di Remedia? È il primo anno, quindi siamo all'inizio di un lungo percorso, però siamo già soddisfatti perché abbiamo gestito oltre 20.000 tonnellate come consorzio Remedia di rifiuti elettronici. Sono diventate 12.000 solo nei primi tre mesi del 2009, questo dà un'idea di come stia crescendo la raccolta. A fronte di questa raccolta e trattamento di RAE, di rifiuti elettronici, abbiamo conseguito un risparmio di energia pari a 8.500 tonnellate di petrolio equivalente, perché riciclando si possono riutilizzare materie prime seconde senza estrarle, mi faccia dire, dalle miniere, con i costi energetici e anche di emissioni di anidride carbonica che ne conseguono. E abbiamo risparmiato circa 73.000 tonnellate equivalenti di CO2. Il nostro lavoro comincia nelle isole ecologiche dei comuni che ci sono assegnate dal centro di coordinamento. Noi andiamo a ritirare i rifiuti elettronici che sono suddivisi in 5 raggruppamenti proprio in funzione della tipologia dei prodotti, ad esempio i frigoriferi separati dai televisori, separati dalle lampade al mercurio. Prendiamo questi rifiuti con i nostri operatori logistici e li portiamo in impianti di trattamento che sono vere e proprie industrie organizzate per smontare e mettere in sicurezza questi rifiuti che in diversi casi contengono sostanze pericolose per la salute e per l'ambiente e successivamente triturare, sminuzzare i vari componenti per ottenere delle materie prime seconde cosiddette come ad esempio il ferro, l'alluminio, il rame, l'acciaio o anche la plastica e il vetro. Queste materie poi sono rivendute per essere utilizzate come materiali per fabbricare e costruire dei nuovi prodotti. Un piccolo appello che è quello di ricordarsi dell'importanza di questi rifiuti, sono rifiuti che vanno gestiti in modo separato, non solo lo diamo per scontato, anche se non lo è il grande frigorifero o il televisore, ma tutti anche i piccoli apparecchi che funzionano con correnti elettriche, dal telefonino al computer alla console per i videogiochi. Questi sono rifiuti elettronici che contengono sostanze pericolose e dobbiamo farlo diventare un comportamento quotidiano, quello di raccoglierli quando non ci servono più, in uno scatolone, in una cesta, in cantina o in garage, e periodicamente recarci presso un'isola ecologica, prima di tutto ancora capire dov'è la nostra isola ecologica, se ne abbiamo una vicina, e quindi sviluppare questa sensibilità che negli altri paesi europei è già molto avanzata e che anche da noi sta crescendo, ma dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme. Chiudiamo questa puntata dedicata ai rifiuti con una storia buona, una storia che trasforma i rifiuti in energia. Ce la racconta il nostro Emiliano Enrico. La rivoluzione verde arriva a Mafalda, comune di 900 abitanti in provincia di Campobasso, dove entro settembre partiranno i lavori per la costruzione di una centrale elettrica a biomasse che produrrà 12 megawatt di energia all'anno. Secondo la tabella di marcia del progetto, la centrale sarà in funzione alla fine del 2011, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Dietro il progetto c'è Dafina S.p.A., sigla di imprenditori guidati da Nicola Dauria, proprietario dell'omonima distilleria di Ortona, in Abruzzo, che da 60 anni raccoglie e lavora proprio le biomasse che derivano dai residui della produzione vinicola. Dauria progressivamente sposterà la sua attività da Ortona a Mafalda, in modo che la produzione di vino e quella di energia elettrica procedano di pari passo. Daniele Barbone, consulente ambientale dell'iniziativa, ci spiega il processo, apparentemente miracoloso, che trasformerà le vinacce in energia pulita. Questo mix si compone di fatto di 90.000 tonnellate annue di vinacce esauste, provenienti dall'attività di distilleria, le vinacce esauste che provengono dall'ottenimento dell'alcol che poi viene utilizzato nelle distillerie, vengono aggiunte altresì di una sansa di oliva, che quindi per un quantitativo annuo di circa 30.000 tonnellate, e altresì a potature lignose che tecnicamente vengono definite cippato. Questo mix di fatto costituisce un combustibile che nel suo insieme è capace, dopo appunto attività di combustione, di produrre calore ed energia attraverso una turbina che lo trasforma poi in energia elettrica per una quantità complessiva di 12 MW che vengono poi consegnati e restituiti alla rete del gestore dell'energia elettrica nazionale. Proprio dalla vendita dell'energia alla rete nazionale arriveranno i guadagni degli imprenditori che si sono lanciati in questa impresa, anche se gli utili non si vedranno prima del 2015. Questo però non scoraggia Nicola D'Auria, che non si impressiona neppure davanti ai costi complessivi dell'opera. Il progetto ha un costo abbastanza sostenuto, si aggira intorno ai 60 milioni di euro l'investimento totale, niente investimenti pubblici, è un investimento di imprenditori. Oltre alla mia famiglia ci sono altri imprenditori, abbiamo un socio spagnolo che è della filiera delle distillerie dell'agroalimentare e probabilmente ci sarà ancora, abbiamo dato la disponibilità a voler fare partecipazione nella nostra società anche aziende del territorio. Nel frattempo D'Auria avrà il beneficio non secondario di smaltire in modo virtuoso gli scarti della sua produzione di vino. I vantaggi naturalmente sono anche per il comune di Mafalda, che ha già incassato oltre la metà dei 480.000 euro previsti per l'avvio della centrale. A questi se ne aggiungeranno altri 680.000 di royalty ogni anno. Questo significa che in 15 anni di gestione il comune avrà a disposizione 10.200.000 euro, tantissimi soldi, che andranno anche a finanziare una serie di progetti collaterali, tra i quali 10 ettari di serre, un centro di ricerca per le energie rinnovabili e l'iniziativa Albergo Diffuso, un programma per attrarre turisti a Mafalda e nella circostante bellissima Valle del Trigno. La centrale inoltre garantisce posti di lavoro, 250 nella fase di cantiere, più 50 assunzioni quando inizierà la produzione di energia. Fin qui tutto bene, ma chi garantisce che la centrale a biomasse non sarà, di punto in bianco, riconvertita in un inceneritore che funziona grazie alla stessa tecnologia ma inquina molto di più? La replica è affidata a Daniele Barbone. Già Lavoisier insegnava che nulla si crea, nulla si distrugge. Se noi facciamo entrare una materia pulita e la cui qualità è sostanzialmente costante, l'attività di combustione non può portare a creare molecole di degradazione che contengono sostanze di tipo diverso. E quindi, ad esempio, dove vengono bruciati combustibili che contengono plastiche, può avere un senso che l'impatto per quanto riguarda le diossine, gli idrocarburi policiclici e altro possa avere una sua significatività. In un impianto come questo, che lavora soltanto su biomasse, soltanto su una qualità costante e con sistemi di trattamento con 4 stadi, a secco, umido, con un'articolazione abbastanza complessa dal punto di vista degli abbattimenti, non è ragionevole pensare che ci siano effetti che possono creare una situazione di allarme sociale. Noi non solo monitoreremo ciò che entra, ma soprattutto ciò che esce, questa è la cosa fondamentale, perché il sistema di controllo che si chiama SME sarà un sistema di controllo in tempo reale. I dati verranno riversati anche su siti internet e sarà possibile consultarli anche dai cittadini. Insomma, un sistema abbastanza controllato e trasparente che permette non solo agli enti di controllo, ma anche al privato di cittadino di sapere che cosa succede nella centrale Dafin. Le rassicurazioni di Daniele Barbone però non convincono tutti i cittadini di Mafalda. La maggior parte è d'accordo con la centrale, ma una minoranza rumorosa teme che possa stravolgere il paesaggio e soprattutto danneggiare la salute. Ecco a confronto le opinioni divergenti sulla centrale di due abitanti di Mafalda. La preoccupazione è dovuta proprio a questo, dalla posizione contrapposta di studiosi a livello nazionale e anche oltre la nostra Italia, che dicono, ci sta appunto chi dice che le emissioni di queste centrali sono innocue, ci sono altri invece che sono dannosi alla salute. La sola combustione di biomasse, non parliamo di che cosa potrebbero bruciare. In un momento di crisi come questo, che fondamentalmente sta portando a zero tutta l'industria metalmeccanica, l'industria in generale, il settore dell'energia è quello che va più a gonfie vele. E poi quello delle energie rinnovabili ancora di più, perché sono convinto veramente che sarà il futuro non di Mafalda ma del paese, dell'Italia, del mondo insomma. È tutto, vi ricordo che potete scriverci all'indirizzo respiro@radio24.it e che potete ascoltarci andando sul sito di Radio 24. Allora l'appuntamento è per sabato prossimo sempre alle 16.30 e domenica in replica alle 14. Buona giornata da Cristina Carpinelli.